Eccomi, Signore, io sono qui davanti a te. Nelle tenebre il mio cuore. So che tu ci sei, che mi passi accanto e prostrato qui. Io mi volgo e grido verso te. Fa che io veda il volto tuo, nei tuoi occhi perdermi come vorrei. Tu sei il mio Dio, io confido in te. Poni le tue mani su di me e ricrea questo mio cuore. Signore, ed io guarirò. Figlio di Davide, abbi pietà di me. Onnipotente, luce del mondo. La mia fede in te, io credo, splendi su di me. Splendi su di me. Tu sei per me, mia vita, via e verità. Solo te io seguirò, Signore. Acqua viva sei, dove purificherò il mio dolore. E il peccato più non vincerà. Ora contemplo il volto tuo e i tuoi occhi limpidi. O re dei re, bellezza che mai tramonterà. Poni le tue mani su di me e ricrea questo mio cuore, Signore, e io guarirò. Luce del mondo, la mia fede.